sia stata effettivamente avviata oppure sia stata costituita la società. Tutta la modulistica utile può essere reperita sul sito www.agenziaentrate.gov.it. Tutti i cittadini che percepiscono un reddito, che sia da lavoro dipendente o da lavoro autonomo, in Italia sono tenuti a pagare una tassa. Questa tassa si chiama IRPEF, che vuol dire imposta sul reddito per persone fisiche. Ha carattere personale ed è progressiva, cioè se aumenta il reddito, anche questa tassa aumenta. E questi sono soldi destinati allo Stato. Poi ci sono anche altre tasse, i cui soldi vengono destinati ai comuni o alle regioni. E lo Stato, i comuni o le regioni utilizzano queste cifre per finanziare la sanità, l'educazione, quindi la scuola e le università, oppure i servizi pubblici. Ogni anno i dipendenti, cioè coloro che svolgono un'attività di lavoro subordinato, ricevono il cosiddetto CUD, che viene richiesto anche nel momento del rinnovo del permesso di soggiorno o della richiesta del rilascio della carta di soggiorno. CUD sta per Certificazione Unica dei Redditi di Lavoro Dipendente. Deve essere consegnato dalle aziende entro il 28 febbraio e indica il totale lordo e netto dei soldi che sono stati percepiti nell'anno precedente. Quindi oggi siamo nel 2011, avremo il CUD 2011 riferito al reddito dell'anno precedente, quindi del 2010. Il CUD deve essere consegnato dal datore di lavoro oppure dall'ente che eroga trattamenti pensionistici, per esempio l'INPS. Nel caso un lavoratore percepisca due redditi da due distinti datori di lavoro e quindi abbia due CUD, è obbligatorio per lui fare la dichiarazione dei redditi, salvo che il secondo datore di lavoro non provveda a fare il conguaglio alla fine dell'anno. Alla fine di ogni periodo d'imposta, che va dal 1 gennaio al 31 dicembre oppure nel momento in cui finisce un rapporto di lavoro, il datore di lavoro deve fare un conguaglio tra le ritenute globalmente operate nei singoli periodi di paga e l'imposta totale dovuta sulle retribuzioni totali corrisposte nell'anno oppure fino alla data di cessazione del rapporto di lavoro. Questa operazione può portare il dipendente ad avere un credito o un debito. Un credito vuol dire che ha dei soldi che gli dovrebbero entrare e quindi dei soldi in più che deve avere. Il debito invece sono dei soldi che lui deve pagare. Quando si ha un rapporto di lavoro dipendente è possibile chiedere le detrazioni per lavoro e per i carichi familiari. Detrazioni vuol dire ridurre le tasse da pagare. Possono essere chiesti anche da chi ha dei redditi percepiti come soci lavoratori di cooperative, se si percepiscono indennità e compensi corrisposti ai lavoratori dipendenti con contratto di lavoro interinale, se si hanno somme percepite a titolo di borsa di studio, se ci sono compensi percepiti in relazione ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, se ci sono prestazioni pensionistiche erogate dalla previdenza complementare, oppure se ci sono dei compensi percepiti da lavori socialmente utili. Le detrazioni per carichi familiari possono essere richieste per il coniuge non legalmente separato e a carico, per i figli, quelli naturali, quelli riconosciuti, quelli adottivi, affidati e affiliati, per altri familiari solo se convivono, per i genitori, fratelli e sorelle, discendenti dei figli, coniuge separato, generi, nuore, suoceri e ascendenti prossimi. Un familiare si dichiara a carico quando non possiede un reddito superiore a 2.840,51 euro. L'ammontare della detrazione spettante non è fisso, ma varia rispetto al reddito complessivo posseduto nei periodi di imposta. È importante sapere che si possono chiedere le detrazioni anche per i figli che sono in possesso di un codice fiscale ma che non risiedono nel nostro stesso paese. In questo caso bisogna andare all'Agenzia delle Entrate, fare richiesta del codice fiscale. Una volta che viene riconosciuto è possibile presentare la richiesta per le detrazioni, di modo che si arrivi a pagare una somma di tasse inferiore. Ogni anno, nel periodo che va da aprile alla fine di maggio, è possibile presentare la dichiarazione dei redditi, il cosiddetto 730, che è uno strumento ordinario attraverso il quale ogni contribuente porta a conoscenza dell'amministrazione finanziaria la propria posizione fiscale. I lavoratori dipendenti e i pensionati possono presentare la dichiarazione appunto con il modello 730. Per compilarlo possono chiedere l'assistenza del proprio datore di lavoro, ma più che altro dei centri di assistenza fiscale, i cosiddetti CAF. Rivolgendosi a questi centri è possibile recuperare l'elenco di tutta la documentazione necessaria per presentare la domanda. Attraverso la dichiarazione dei redditi è possibile recuperare delle spese sostenute durante l'anno precedente, quindi 2010, se si fa la dichiarazione nel 2011. Le spese che è possibile recuperare possono riguardare la scuola, così come la salute, la casa o anche l'automobile. Fanno la dichiarazione dei redditi coloro che hanno un reddito da lavoro dipendente oppure anche che hanno un reddito da lavoro autonomo ma per cui non è richiesta la partita IVA. Nel caso in cui invece ci sia lavoro autonomo con partita IVA, la persona interessata deve presentare il modello unico, che ha la stessa funzione del 730, però viene presentato in momenti diversi dell'anno. In questo caso, infatti, ci si sposta a settembre. Il modello unico deve essere presentato da coloro che svolgono lavoro autonomo e quindi hanno una partita IVA, ma anche dai lavoratori dipendenti che nel momento della campagna del 730 non avevano un datore di lavoro, quindi non avevano un sostituto di imposta. Il modello unico, come dicevamo, deve essere presentato in settembre e deve essere presentato anche da chi ha redditi di capitale oppure redditi fondiari, quindi redditi derivanti da terreni o fabbricati. Ritornando al 730, il 730 è obbligatorio per coloro che hanno due CUD e per cui non è stato effettuato il conguaglio. È obbligatorio anche per collaboratori domestici e assistenti familiari che hanno un reddito superiore agli 8.000 euro. In questo caso è obbligatorio perché il loro datore di lavoro in quanto persona fisica non è un sostituto di imposta e quindi mensilmente non viene versata la quota di IRPEF. E si tratterebbe quindi di evasione fiscale qualora non venisse fatto il 730. Periodicamente l'Agenzia delle Entrate può anche effettuare dei controlli a campione e dare anche delle multe nei casi in cui il 730 non sia stato fatto. Non sono obbligate a fare il 730, quindi le persone che hanno un reddito inferiore agli 8.000 euro se hanno lavorato tutto l'anno, coloro che non hanno interesse a farlo avendo un solo rapporto di lavoro, e coloro che hanno un reddito anche superiore agli 8.000 euro, ma che è un reddito derivante da, per esempio, borse di studio piuttosto che pensioni, piuttosto che indennità di invalidità. Visto che si tratta di un argomento delicato e anche importante, per avere informazioni maggiori e anche più dettagliate, il consiglio è quello di rivolgersi ai CAF presenti sui territori della provincia.